solo chiacchiere distintivo. Qui finisce la lezione. Sei solo chiacchiere distintivo, solo chiacchiere distintivo. Sei solo chiacchiere distintivo. Un po' di screccio per iniziare. Va bene, va bene, va bene. 22:56 minuti primi, le frequenze di Radio Onda Rossa, 87.9 della banda romana e laziale, ci siamo. Perché ci siamo, perché compagni e compagni, ascoltatori e ascoltatrici sostengono la radio, e questo succede dal 1977, quindi da una caterva d'anni, 47 anni per l'esattezza, dato che già qui ci stanno i banner della festa della radio che ce lo ricordano, 24, 25 e 26 maggio 2024, quindi ve lo diciamo fin d'ora, e ci sostenete in tutte le maniere, come sapete fare voi, varie generazioni che si sono succedute, che in radio, dai microfoni, nelle corrispondenze, in quello che la radio produce nella sua rete di rapporti umani, sociali, politici. Per 47 anni quasi ha fatto vivere questa emittente, perché dall'altra parte chi ascolta, ma appunto il nostro ascolto è sempre interattivo, sappiamo che chi ascolta spesso e volentieri partecipa anche a vario titolo alla vita della radio, dicevamo, chi ascolta, chi sta dall'altra parte insieme a noi contribuisce a sostenerla anche in forma economica. Siamo lì lì in direttiva addirittura, arrivo, non suonava la direttiva, addirittura d'arrivo per lanciare la nuova campagna di sottoscrizione di radio abbonamento per Radio Onda Rossa. Per ora vi ricordiamo quello che è il numero del conto corrente postale della radio da intestare a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, 6180 4001, via dei Volsci 56, 00185 Roma San Lollo. Comunque, se andate sul sito, su Sostieni, troverete tutte le modalità per poter contribuire alla radio anche prima che inizi la campagna di radio abbonamento. Perché comunque le bollette, le spese, gli impicci ci stanno sempre anche al di fuori delle campagne di abbonamento, e quindi il vostro supporto, niente, non escono le sillabe come dovrebbero, è sempre indispensabile. Vediamo un altro paio di numeretti, e cioè, e di letterine, e cioè i contatti della radio. Ovviamente ci stanno i social, chi più ne ha più ne metta, che noi non ci diamo normalmente. Poi la casella di posta elettronica della redazione della radio, Onda Rossa, @ondarossa.info, dove poter far arrivare le vostre comunicazioni. 25 o'clock@ondarossa.info per mandare gli insulti a noi altri. E se volete pure qualche propostina, insomma, così, che non fa mai male. (06491750) recapito telefonico della radio, illuminate di rosso, che però non si illumina quasi più dato che c'è la lampadina fulminata. Comunque, illuminate di rosso la redazione della radio più rossa che c'è. Questa sera, come avevamo anticipato, avremo ospiti. lo mettiamo al plurale e poi capiremo perché. Non si tratterà affatto di una novità per questo spazio, sentirete delle voci note, soprattutto per chi ci ascolta da un po' di anni a questa parte. Che nel periodo di grandi stravolgimenti del mondo, degli equilibri, delle storie, eccetera, eccetera, a noi ci piace rimanere nella bolla dell'avviso di disconnessione. Non abbiamo pubblicato per gli affezionati e le affezionate il podcast della scorsa settimana, siamo al solito sempre in nettissimo ritardo, però promettiamo che questo lo pubblicheremo prestissimo. Noi iniziamo sempre dalla fine, al contrario. Un po' di suspense, non abbiamo provato i microfoni, sentiamo un po' le voci, dai. I microfoni non funzionano, vai, adesso. Si provano solo in diretta. Si provano solo in diretta. Vai. Il bello della diretta. Beh, qui dobbiamo alzare un pochino. Allora, due voci conosciute, però insomma vi volete ripresentare, perché poi devono passare un po' di anni, insomma, da quando, non tantissimo per quanto riguarda il fantasma, anche detto, e dall'altra parte invece abbiamo vai, da lungo tempo assente Magnetizer su queste frequenze. Io assente da un po' meno tempo, insomma. Sì, forse dopo l'esperienza di 25 O'Clock, ricordiamolo. Sì. Qualche partecipazione così al volo, appunto, che era già qualche anno fa. No, ricordiamo forse lo scorso anno, proprio la puntata con Marco. La puntata con Marco, esatto. La densa puntata fatta con Marco. L'ultima volta che abbiamo sentito. Almeno questa parte qui, per presentare un progetto di cui si così maneggiava da tanto tempo. Abbiamo mandato tante cose, tanti esperimenti, ci girava intorno, insomma, intorno al già aleggiava qualche idea, insomma, che poi si è condensata con questo lavoro, con questo demo. E niente, che è venuto fuori in più o meno in che periodo? Un mesetto fa, forse qualcosa di più? Un mesetto fa. 22 gennaio. 22 gennaio, un po' più di un mese fa, e che si chiama 2024 avanti Cristo. Sì, ma il progetto è Velester. Il progetto è Velester che appunto poi ha contribuito in varie maniere, eccetera, eccetera. Chi è questo Velester? Da dove viene? Come intende muoversi? E poi andremo a sviluppare, a dipanare, perché poi avete portato un corposo numero di tracce, insomma, di esempi, di suggestioni, di cose che ascoltiamo. Anche banalmente, insomma, una scaletta che fotografa un po' questo momento, la genesi del progetto, insomma, sia proprio concettuale sia a livello di ispirazione e di emozioni e vita vissuta che ci ha portato a scegliere determinati suoni. Si può dire che è cominciato un po' per gioco? Ma sì, ma sì, è dura pure il gioco, insomma, però Sì, no, sicuramente per gioco. Ma in realtà la nascita del progetto è proprio quando abbiamo smesso un po' di giocare con quello con cui stavamo giocando e abbiamo deciso, insomma, di coagulare un po' di nostre sperimentazioni e di provarne di nuove in un lavoro che è questo 2024 avanti Cristo. Quindi se tu ti lamenti del ritardo nel postare i podcast di una settimana, certo, questo demo ci ha messo 48 anni. Benissimo. E prima di andarla a presentare, perché poi appunto un po' forse avete già capito, almeno chi è assiduo ascoltatore, ascoltatrice, lo dicevamo prima. Però vi facevo una domanda invece, no? A cui ho detto non mi date risposta, ve l'ho fatta un'ora e mezza fa, in cui tanto proprio per sgombrare il campo a qualsiasi l'altro giorno, così ci mettiamo pure un pochino no, ma se lasci il drone sotto, sì. Ci lascio, per creare pure un po' di racconto insomma a questa storia, stavo ascoltando una musichetta di queste pubblicità che vanno 6.000 volte al giorno, con una cantantina che faceva un ritornello molto una frase molto orecchiabile, insomma l'avrete sentita tutti, non so il titolo, non so come si chiama, ma è una cosa che avete veramente sentito tutti, perché sono quelle cose che ti bombardano, eccetera. Andremo a scoprire adesso, fra poco, il progetto Velester, che però comunque è un progetto, vabbè, andremo a scoprire quindi. Ma perché non vi siete messi a fare delle musichette in questo periodo così appunto di stravolgimenti globali, eccetera? Perché uno che decide di mettersi a suonare in una certa maniera non decide di arrangiare, di preparare, di produrre delle musichette che magari servono per facilissime, ascoltabilissime, eccetera, eccetera, ci svolta la vita e finita così. È una domanda che voglio fare a tutte le band da ora in poi che verranno qui, sarete, forse l'ho già fatta qualche volta così, però provocatoriamente. Qual è il motivo per cui diciamo ci ostiniamo, o se è una forma di ostinazione, a produrre delle cose che stanno un po' al limite o che stanno dentro dei progetti, delle fisse nostre, eccetera, eccetera. Non ci adeguiamo in qualche maniera, se volete, a tutto sommato quello buono. Io sono svolto la vita e continuo a essere quello che sono. Allora, la domanda cattiva, cioè, no. Si sa che a 25 o'clock, insomma, vai. Comincio io. Allora, diciamo che sono scelte ed esigenze diverse. Se decidi di far diventare il tuo lavoro creare dei jingle o un certo tipo di lavoro di produzione adatta allo spot, al mercato pubblicitario, puoi tentare di farlo, ci sono dei canali. Ma quello che facciamo noi non è lavoro, è un'esigenza un po' più primordiale, spontanea, di quello che vogliamo fare, di quello che ci viene da fare, insomma. Un'esigenza comunicativa incontrollata, diciamo, per cui non dettata da una logica di dove ci svoltà, per dirla in maniera abbastanza. Poi in realtà è stato pure un esperimento tra di noi che magari singolarmente già facevamo le nostre esplorazioni, i nostri spippolamenti vari. Detto così è un po' ambiguo, in realtà si tratta di suonare sintetizzatori, vorrei, esatto, precisare. Girare le manopole, quindi spippolare in quel senso. Specifichiamo, sì, no? Sì, no? Potrebbe essere, sì, potrebbe essere. Sì. Oggetto di speculazioni, sì, anche di fraintendimenti, però diciamo partendo entrambi ognuno per conto suo nell'approccio ai sintetizzatori, quello che è stato esplorare il funzionamento dei sintetizzatori si è tramutato poi in alcune tracce che piano piano poi hanno raggiunto questa forma un po' più coerente, che è il demo 2024 avanti Cristo. Però ci ricolleghiamo anche alla domanda: è cominciato per gioco? Un po' sì, perché ovviamente si comincia a suonare i sintetizzatori senza avere il benché minimo, come dire, una benché minima cognizione anche di che cosa sia un sintetizzatore. Io prima di cominciare a suonare un sintetizzatore ho dovuto capire che cos'è un sintetizzatore, che già, perché tu vieni da altre esperienze musicali, ricordo, venivo però da esperienze altre robe del tutto rock, per cui con strumenti analogici ben conosciuti, ben chiari, insomma una batteria è ben chiaro come funziona una batteria, certo. La percuoti e dà una risposta, mentre un sintetizzatore non è così proprio immediato. Capire almeno insomma come si modulano i suoni, come si creano dei timbri, e questo è anche il suo fascino, per cui dopo tanto tempo che ho cercato di capire che cosa, cioè come funzionasse proprio un sintetizzatore, poi c'è stato un approccio fisico con il primo approccio al synth, e da lì piano piano si va sempre più a fondo, come si va a fondo nella conoscenza della musica, nell'esplorare appunto nuovi ambienti musicali. E ci siamo persi in questo nuovo però mondo. Anche avendo dei riferimenti, cioè mi sembra che poi il lavoro compiuto non è affatto sperimentale da un certo punto di vista, ma ha un obiettivo preciso, cioè di andare poi a, vabbè, poi magari lo scopriamo piano piano. Vogliamo cominciare anche, perché poi le parole sono importanti, la musica lo è ancora di più, vogliamo cominciare, non so, o con una traccia di quelle delle scalette, o vogliamo subito buttarci con un Velester, che peraltro probabilmente no, abbiamo ascoltato solo una traccia delle quattro che compongono il demo, poi magari parleremo un po' del demo. Quale, che facciamo? Ascoltiamo invece un riferimento, direi, prima ancora di mettere i piedi nel piatto? Eh sì, direi sì. Qualcosa per scaldarci, insomma, sì. Allora, ecco. La prima, allora abbiamo scelto un po' di pezzi. C'è una band che ci sta un po' più a cuore delle altre, esatto. Se vogliamo parlare di quella che è proprio l'ispirazione, la matrice. Cioè il sottotesto è ci piacerebbe. Ci piace. Però insomma. Ci piace tanto la band nei nostri cuori e ci piacerebbe tanto. Cioè, nel senso che spesso ci siamo, trovati a sentire dei pezzi di. Ma insomma, ce ne vuole. E lo scopriamo con questo pezzo, la qualità di questa band. Che loro perché sono, lo devo mettere io, vai. Loro sono i Dead Can Dance. Ok. Se lo troviamo. E questa è la loro danza delle baccanti. Danza delle baccanti. Allora, ci diamo qualche seconda ancora, dai. torniamo in onda 87.9 della moduzione di frequenza 25 o'clock Radio Onda Rossa con il progetto Velester. Allora, parlavamo di synth, di strumenti che digitali, insomma, che comunque producono suoni e musica dal beat, comunque da un'elaborazione tutta fatta in macchina, però rivolta, ci sembra di capire, o come anche insomma rivolta non al futuro, quindi a un'elaborazione di suoni, ma invece che guarda indietro, guarda al passato, guarda ad alcuni suoni invece che, ma lo stesso progetto Velester, insomma, in tutto guarda indietro, appunto 2024 avanti Cristo. Dov'è l'ispirazione e dove trai l'ispirazione per questo guardare indietro, e se è veramente un guardare indietro? Ma in realtà è una proiezione del futuro di questo personaggio immaginario che è nato un po' dai racconti che ci siamo fatti nelle chiacchierate prima di, cioè mentre stavamo decidendo di fare questo progetto. È un personaggio del V secolo a.C., si chiama Velester, è un volosco, quindi si trova bene qua a Via dei Dolci, e però si ritrova a poter comunicare in questo mondo nel presente attraverso gli strumenti che trova, e ha trovato due ambasciatori che mettono al servizio di questa entità incorporea, e insomma questo è un po' il concept di base. Riuscire a creare un ambiente sonoro di un mondo antico attraverso strumenti moderni, attraverso la sintesi digitale in questo caso, e poi insomma condita anche da strumenti a percussione che campioniamo noi, e poi mettiamo tutto in mix. Sì, vai, non so se Jacopo voleva. Beh, diciamo che concettualmente ho sempre pensato a quelle che sono fascinazioni di un mondo arcaico, antico, ancestrale, pastorale, che vanno a cozzare con dei suoni moderni, per cui che escono da delle macchine, da dei circuiti che vengono modulati, e la fascinazione di questo contrasto in sé, e diciamo abbiamo cercato un po' di seguire questo tipo di suggestione, per cui un arcaico che però è ricreato con suoni artificiali e moderni. E in tutto questo, allora, poi magari andremo pure a parlare mi parlerete proprio della elaborazione poi di ogni singola traccia, almeno di questo demo, o anche delle altre cose che non sono rientrate nel demo, suppongo, e quindi la selezione di queste quattro esempi. Quanto vale appunto la parte proprio della produzione, quindi suonare e del mixare, che poi appunto mi descriverete meglio, e quanta ispirazione proprio da noi abbiamo descritto il personaggio, ma anche dal frequentare alcuni luoghi, cioè la spazialità, cioè la parte proprio dell'ispirazione che viene dal cercare di vivere questo passato, cercare di entrarci dentro, insomma, ci stanno pure delle tecniche, secondo me, conoscendovi, però, rispetto a questo argomento. Beh, sicuramente una cosa che mi viene subito in mente quando andiamo a fare delle registrazioni ambientali delle greggi al pascolo, per cui appunto un legame anche con il territorio, con un certo tipo di concezione. Ma poi su altre tracce ci sono, poi le andremo a sentire, registrazioni di cori di Orgosolo, sempre da registrazioni ambientali. Ce l'abbiamo un po' come... Quindi inediti, non sono sample questi, sono proprio cose che Velester si è preoccupato di ricavare, insomma, dalla natura o nel caso... Assolutamente. Fanno parte, diciamo, sono, cioè, abbiamo riportato anche quello che è un po' il nostro presente, le nostre esperienze degli ultimi anni. Mi viene da pensare al viaggio in Sardegna che ha fatto Dario, che lo ha arricchito enormemente, il mio approccio con l'allevamento e per cui con il mondo ovino, come lo chiamo io, che mi ha arricchito enormemente. Da queste esperienze di vita, insomma, abbiamo tratto ispirazione e anche qualche registrazione. Una forte passione comune per la storia antica, sì, per i luoghi del Lazio arcaico. E forse proprio per quello non vengono la prima domanda, non vengono le musichette, tutto sommato. No, non c'entravano. Non gli vengono. A Velester non lo so. Escono i jingle. Magari in futuro sì, diventerà un milionario produttore di jingle. Ci dobbiamo accontentare di questo al momento. Allora, mi volevo ricollegare un po' ai Dead Can Dance, che mi era venuto un po' in mente, perché poi non è che ci abbiamo un po' per i nostri ascolti, diciamo, attuali. Ma anche relativamente a questo progetto non è che ci abbiamo un gruppo di riferimento. I Dead Can Dance rientrano un po' in un concept, diciamo, arcaico, eppure diciamo, passando tanto tempo sul sound design, sulla produzione, comincia a cambiare pure un po' orecchio sulle cose che sulle cose che ascolti, e ci ritroviamo nei Dead Can Dance a vedere a sentire delle produzioni di con una resa di un certo livello, quindi diciamo, aspiriamo a fare le cose con quella qualità di suono, però insomma ci metteremo qualche altro millennio. Vogliamo passare a un'altra traccia e poi magari facciamo un'altra traccia e poi un Velester. Un'altra traccia, un altro millennio. Ci sono? Allora, siamo anche appassionati di cinema. Ora però parliamo di TV. Rai del 1968, lo sceneggiato, erano gli anni degli sceneggiati, il fantastico Odissea. Ci ascoltiamo il tema dell'Odissea dal compositore Carlo Rustichelli. Ok, e ci siamo. Siamo in onda 23 e 35 minuti primi in diretta con Velester e il suo progetto. Allora, abbiamo parlato poc'anzi di questa immersione spaziale, quindi di trarre comunque da questi panorami reali poi invece dei panorami sonori, no? Poi da rielaborare per inserirli dentro le tracce. E come ogni buon giocatore di poker ci siamo spezzati piano piano le carte, è uscita fuori proprio questa Fufluns, si sarebbe Fufluns, che è appunto il primo esempio di questo mini lavoro che avete presentato, insomma, di questo demo, non so come vi piace più chiamarlo. Demo. Quindi se c'è questo rapporto appunto fra i suoni e lo spazio, c'è ancora di più, ha ragione, il rapporto fra il suono e l'immagine, no? In cui appunto tutto sommato gli occhi sono in grado di vedere qualcosa che poi va tradotto in termini sonori. Vogliamo approfondire pure un po' questo tipo di esperienza e anche appunto quanto sia visiva poi la vostra produzione. Allora, la vocazione, diciamo, delle nostre composizioni è appunto quella di rappresentare il livello sonoro delle immagini. In questo caso diciamo abbiamo attuato una rappresentazione di una scena, mm-hmm, che avviene nel tempo in un determinato luogo. E la prima parte della traccia è l'ambiente pastorale e poi c'è un passaggio con un cambiamento. Fischiamo tantissimo. Sì. Però non mi spiego, dovrebbero essere le cuffie che rientrano. Sì, secondo me sono le cuffie che rientrano. Forse vai. Volevamo rappresentare con questo brano il passaggio di economia di paesaggio dall'antica economia di sussistenza basata sull'economia pastorale. Quindi siamo nell'età del bronzo, mm-hmm, all'incirca, e l'economia diventa stanziale con l'allevamento. Quindi da quest'idea, da questo momento, sì, storico, l'abbiamo voluto tradurre in musica, e quindi ci sono le due parti, la prima parte pastorale e poi il passaggio con un mondo di economia stanziale, con la nascita delle prime aristocrazie, uh-huh, e quindi c'è la pomposità del finale, le prime forme di urbanizzazione, non proprio urbanizzazione, l'accentramento di potere. Perfetto. E non so se voleva aggiungere qualcosa Magnetizer. Allora, e il rapporto invece con quell'altra arte, quella proprio che basa tutto sulla visione, insomma. Quindi prima abbiamo ascoltato Carlo Rustichelli, e quindi la colonna sonora di, in questo caso, uno sceneggiato televisivo, ricordavi, però fra le ispirazioni, o forse più che altro fra le direzioni che prende il progetto Velest, c'è proprio quella del intersecarsi con il cinema. E magari forse volevi dire pure qualcosa su perché Odissea di Carlo Rustichelli. Odissea è una tradizione, diciamo, molto buona dell'opera di Omero. Con una colonna sonora che va a commentare queste scene ancestrali, queste scene mitologiche, mm-hmm, alla perfezione. Quindi ci piacerebbe fare una cosa del genere, certo. anche in scala più ridotta, insomma, stavamo anche pensando a dei cortometraggi, delle clip che possono accompagnare con le immagini i nostri pezzi. La vocazione sicuramente è quella di accompagnare una serie di immagini. Sicuramente ognuno dei nostri brani, mentre lo concepiamo, ce lo vediamo, cioè è come uno scorrere di immagini, è come un quadro che si crea di fronte a noi. Questo qualismo l'abbiamo sempre un po' mantenuto, perché quando abbiamo magari messo insieme qualche melodia, c'è sempre una fase successiva che è parlare proprio di emozioni che ci trasmettono queste melodie e creare come una sequenza, diciamo, di immagini che poi traduciamo in suono e diventa la sequenza del mix. Cioè, se non riusciamo poi a raccontarci tra di noi quello che noi componiamo, poi difficilmente poi magari un altro ascoltatore riesce ad immaginare qualcosa, non lo so. Cerchiamo sempre di mantenere una linea narrativa, sì, all'interno del brano. Ma c'è questo processo razionale o no? Cioè di portare in parole delle immagini che poi vengono trasferite in musica, cioè c'è un concetto dietro, c'è proprio una o è un processo parallelo, mentre produci vengono fuori queste immagini? Come... Sì, diciamo che ci ritroviamo a considerare che quella determinata melodia su cui stiamo lavorando, sì, ci ricorda, ci evoca, diciamo, un'immagine, sequenza, cioè, una sequenza. E appunto poi l'incastrarsi di melodie tra di loro e creare tutto un ambiente sonoro attorno alla melodia stessa, dei ritmi e tutto quanto, va a completare sempre di più, va a rendere sempre più viva l'immagine che si crea di fronte ai nostri occhi. E poi giustamente il Fantasma diceva, poi se tutto sommato qualcuno ci vede qualche altra cosa, tanto di guadagnato, insomma. Chiaro. Io infatti suggerisco di ascoltare la nostra musica a occhi chiusi, in cuffia, occhi chiusi, un momento intimista, comunque, insomma, sì, luci spente, qui siamo in penombra come ci piace stare, però insomma se spegnessimo del tutto le luci sarebbe ancora meglio. Se chiudete gli occhi vedrete di più. Ho capito. Ascoltate, andiamo avanti un pochino anche con la scaletta, con le suggestioni, e poi pian pianino andremo a scoprire la seconda carta. Cosa nella lunga scaletta, cosa andiamo a selezionare ora? Io ricordo che a un certo punto dovevamo introdurre un tema, però insomma non volevamo, so, sì, volevamo introdurre un tema che fa parte anche magari della genesi di ciò che stiamo esplorando, il fatto che dopo anni di ascolti di metal, punk hardcore, brutalità varie, glam, quello che vi pare, però sempre cose molto molto pesanti, a un certo punto a noi, come a tantissime persone al mondo, gli si è cominciato a creare una forma di distaccamento da determinate sonorità. A un certo punto ti suona tutto un po' già sentito e per cui ti allontani. Posso inserire proprio su questo? Mi ricorda questa cosa, lo Steve Von Till dei Neurosis, che poi invece fa queste ballate lentissime, lo-fi, blues. Credo ci sia una spiegazione neurologica per diciamo, questo. Abbiamo coniato un termine per spiegare tutto questo. Come sono gli scappati di casa, ci sono anche gli scappati dal metallo. Per cui c'è tutto un filone di gente che a un certo punto fugge, si allontana, chi più chi meno, chi va proprio altrove completamente. Naufragato. E noi abbiamo naufragato nei sintetizzatori, diciamo, piano piano, e in tanti altri tipi, insomma, di ascolti, perché poi parlando, insomma, realisticamente io Ma è un rinnegare questo secondo detto tale? Voler cercare qualcosa di nuovo, la ricerca di qualcosa comunque di nuovo. Comunque si rimane attaccati con un cordone ombelicale a quella roba lì. Ma sì, farà sempre parte del DNA. Certo, certo. Infatti, poi come si diceva con il fantasma, riesce fuori comunque. Sì, a parte che riesce fuori, ma quando poi ascolti determinati progetti musicali che provengono da Scappati del Metallo, se lo sei anche tu, lo percepisci subito, diciamo, questo qui è scappato per metallo. Esatto. Sì. E come esempio che cosa comunque da Scappati del Metallo, forse non lo so, c'hai qualcosa in mente? Ma allora, io di Scappati del Metallo come esempio c'ho Here Lies Man, che siamo ancora attaccati a sonorità, fazze e cose varie, ma parliamo di contaminazioni molto pesanti di musica africana. E avevo selezionato un brano che non ha nulla a che fare col metallo, anzi, ricollegandoci magari a quello che dicevamo prima, un brano da ascoltare a occhi chiusi, un brano estremamente intimista. Viene dal loro album, dal loro secondo album, che è uscito nel 2018, You Will Know Nothing, e la traccia che ho portato per voi è Voices at the Window. Sempre il solito minuto che cerchiamo tutto e ci siamo. Thank you. Radio Onda Rossa, 23:51 minuti primi, questa è 25 o'clock. 06 491 750. Per accompagnare le nostre voci con dei trilli, come di consueto e come abitudine qui a Radio Onda Rossa. E ritorniamo appunto con Velester, con cui stavamo tranquillamente, questa volta con la stessa pagatezza dei suoni, con la stessa, i tempi dilatati dei suoni stessi. Ci piace dipanare pian piano gli argomenti, tirarli fuori anche un po' alla volta. Dunque, parlavamo appunto di lentezze e di ritmi lenti e progressioni molto blande, molto come anche appunto questi cambiamenti di scena che non sono mai repentini, no? Ci sembra di capire. E di una produzione che dicevamo è iniziata un bel po' di tempo fa, quindi anche proprio nella produzione effettiva della musica ci sono dei tempi che sono abbastanza non punk e non metal, ecco, anche in questo, no, forse c'è lo stacco con quanto dicevamo prima. Allora parliamo di questa cosa e parliamo poi della difficoltà effettiva. Poi abbiamo detto, avete cominciato un po' per gioco, quindi imparando a come si dipana insomma la matassa di Velester, proprio tecnicamente parlando, nella produzione delle singole tracce. E poi magari alla fine di questo racconto andremo con un'altra traccia di Velester a scoprire appunto piano piano il poker che abbiamo in mano. Dunque, parlare generalmente di un metodo comune di produzione, non lo so, nel senso che alla fine sono quattro brani diversi, da uno praticamente acustico, che è nato da una jam suonata, e altre parti che hanno avuto delle evoluzioni un po' più lunghe, un po' più strutturate, un po' più anche di sperimentazione. Sì, sicuramente ci sono stati brani che sono usciti in maniera leggermente più spontanea e altri su cui abbiamo dovuto un po' più aggiustare il tiro mano a mano che incastravamo le melodie. Diciamo, non abbiamo come i veri professionisti un workflow, come direbbero i tecnici, ben consolidato, per cui queste prime quattro tracce sono nate da incontri, da elucubrazioni, da mille tentativi, mille prove, mi piace, non mi piace, facciamo così, cambiamo cos'ha, come spesso succede insomma, penso, quando si va a sperimentare. Sì, certo. E quando è che capisci che è finito, oppure non lo capisci mai? Beh, i saggi dicono che non esistono mix finiti, esistono mix abbandonati, per cui potresti continuare all'infinito ovviamente a cercare qualcosa di sempre più che ti gratifica, e questo è stato un punto di dialogo e di scambio tra me e Dario, spesso e volentieri insomma ci siamo trovati in varie circostanze a dire ok, mettiamo il punto, perché possiamo appunto continuare all'infinito, ma a un certo punto la traccia va chiusa. È sempre per tutti, insomma, tutte le persone che fanno musica, questo è un concetto ben noto. E quindi qual è la fase che proprio a livello di tempistiche impiega di più, proprio in generale, di fatica, se volete, e di fatica mentale ovviamente, insomma, la fatica semmai è quella delle camminate per andare nei luoghi di cui parlavamo prima. Ma quello è il piacere, insomma. Credo la fase di messaggio missaggio delle singole tracce. Beh, la fase di missaggio io invece do una risposta differente. Secondo me la fase più difficile è quella fase in cui hai delle melodie ma devi creare la struttura del brano, cioè devi creare tutta una narrazione attorno a queste melodie. Hai delle melodie che ti girano in testa, le hai anche incise, le fai girare tra di loro, si incastrano bene, ma devi creare tutta una narrazione attorno. Lì può passare anche tanto tempo e tanti tentativi. Quella forse è anche però la parte un po' più divertente, che un po' più introspettiva, di esplorazione, appunto, che fai del ricercare delle melodie e di creare una struttura un po' più corposa. Poi ci sono degli aspetti anche un po' matematici che richiedono tanta pazienza e tanta conoscenza. Matematici? Per quanto riguarda le frequenze in fase di mixing, in fase di missaggio, quello è un po' più complicato. Questo è un lavoro che abbiamo totalmente autoprodotto, quindi abbiamo composto il tutto e certo. Ci siamo azzardati in un fatto missaggio con le mani, fatto con le mani. E secondo voi ci avete messo tanto o no? Tutto sommato, troppo. Molto. Ma è una lungaggine data anche dalle vicissitudini della vita quotidiana, dato che appunto non componendo jingle per gli spot pubblicitari, e per cui non siamo persone che lavoriamo H24 sulla musica, magari, per cui si fa nei ritagli di tempo, insomma. È brutto dirlo, però è vero. Allora, vai. No, abbiamo esaurito. Dicevo, nei ritagli di tempo abbiamo dovuto, insomma, mettere in comunione le nostre conoscenze, provare, gemmare, confrontarci sulle idee. Sono state lunghe chiacchierate notturne. Quindi anche molto, molto eloquela, molto parlare, molto teorizzare, diciamo, intorno a... Lavorare sull'immaginazione. Quindi ritorna questa cosa dell'immagine. Assolutamente. Di traccia immaginifica per quanto riguarda Velester, magari mandiamo sempre un'altra traccia dalla vostra scaletta di suggestioni e poi mandiamo un Velester. Tra l'altro, con un po' di enfasi, vogliamo fare un po' di enfasi come in prima. Antiquarium no, perché l'ho mandata. Però. Le altre tre tracce di cui abbiamo ascoltato appunto Fufuns sono in anteprima radiofonica intercontinentale, ma anche interplanetaria, per quanto ne possiamo sapere. Quindi che onore, vai. Dunque, non ci provo così a braccio. Senti, da Scappati del Metal, Gli Angeli della Morte, Angels of Death, loro sono gli Hawkwind, che te lo devo fare? Sempre aspetta un attimo.

dopo la mezzanotte torniamo in onda a 25 o'clock Radio Onda Rossa 87.9 della modulazione di frequenza 0649 1750. E dato che comunque avete un'esperienza radiofonica, mettete una toppa alla serie di errori che ho fatto come se non li avessi fatti. Vabbè, abbiamo fatto una bella doppietta con un volo pindarico, insomma. Abbiamo ascoltato prima Gregorio Panigua con la sua inno a Nemesi, questo da un lavoro del 1977. Che è Music of Ancient Greece, dove ha ricomposto i microfoni aperti pure erano una cosa ricercata, ovviamente, no? Chiaramente. Chiaro, no, quello era il giusto accento al momento giusto. E quindi cosa ha fatto? È andato a ricercare tutti i frammenti sui papiri antichi dell'antica Grecia, di possibili spartiti. Ha fatto questo lavoro di ricerca, ha ricomposto delle sonorità, delle melodie, ma anche ricostruendo gli strumenti antichi. Quindi ha creato questa orchestra che ha fatto questo lavoro nel 1977. Ve ne andate a ripescare poi nel podcast quando sarà pubblicato, chi lo sa quando. Archeomusicologia, esatto. E poi invece dopo gli Hawkwind che eravamo. Poi gli Hawkwind, gli Hawkwind, insomma, sono un nostro grande amore. Un punto di partenza concettuale proprio per la musica, per quanto ci riguarda. Sì, sì, anche per la vita a tratti. Quindi sì, ed è l'anello un po' di congiunzione che, sì, scappati dal metal, poi manteniamo alcune cose, diciamo, di heavy rock psichedelico che ci piacciono. Poche cose poi, Poche cose, selettivi però. Pochi elementi che chissà riconosce. E poi abbiamo certo. Il secondo asso. Abbiamo ascoltato Antiquarium, che è il brano di apertura di questa demo. Ed è un po' Antiquarium perché è il luogo dedicato a contenere oggetti antichi. Quindi è un po' la camera, diciamo, che ti fa entrare un po' nel mondo antico di Velester. Quindi è un brano introduttivo che riporta attraverso queste atmosfere un po' notturne. Cerca di descrivere un po' il passaggio, l'entrata in un mondo arcaico di un altro tempo, un mondo nascosto. E questa, insomma, è la camera che è Antiquarium, la camera sonora. Vediamo tra l'altro se riusciamo anche a togliere il fischio, che pure quello non era incidentale, ma voluto, ovviamente. Chiaramente, scelta. Infatti, senti, gusto. Adesso non c'è più, perché adesso vogliamo che non ci sia. Allora, io avrei un'altra domanduccia da farvi. Non so se vogliamo invece continuare con ancora le produzioni e lasciarcela per dopo, o se spararcela subito adesso. Come preferite, perché appunto ormai vi lascio. Certo. Proprio la domanda. Vi lascio la domanda. Prego. Allora, l'avete voluto, lo chiamate, lo denominate, lo collocate come demo. Qual è l'aspirazione nascosta dietro il fatto appunto di volerlo chiamare demo? Demo per cosa? Demo dimostrazione a chi? Chi è l'interlocutore vostro in questo momento, insomma? Se si può rilevare, insomma, se si può rivelare questa aspirazione indicibile. Beh, data la genesi, che è stato appunto un percorso di scoperta e approccio al mondo assolutamente spontaneo, è sicuramente una dimostrazione a noi stessi che qualcosa siamo riusciti a farla, principalmente in questa ricerca. Cioè, questo però è confessabile. Sì, sì, sì, no, è stato un lavoro che ha chiuso comunque un certo percorso. Diciamo, quando ci siamo sentiti un po' di essere arrivati a una idea musicale un po' più omogenea, come dire, coerente, abbiamo deciso di chiudere questo percorso qui e di concentrarci su una come dire, su un progetto più ampio, ma più che più ampio, invece più stretto. Abbiamo dato il primo vagito, si è chiuso questo capitolo che è il primo vagito e ora bisogna imparare a camminare. Per cui il nuovo capitolo è la nuova evoluzione del suono di Velester. Demo, perché diciamo, attraverso i quattro pezzi sono anche quattro diversi tipi di approccio di produzione, mentre ci vogliamo concentrare su una, diciamo, sul livello al quale siamo arrivati, insomma, nel nostro percorso. Ok, va bene, poi casomai lo continuiamo dopo. Andiamo avanti con la vostra scaletta e con un'altra traccia di Velester, direi. Ascoltiamo Fertilità a questo punto. Sempre da Velester, o vogliamo dare sempre l'interludio precedente con una delle altre suggestioni che ci avete proposto? Se vogliamo dare un interludio. Ce l'avevamo in canna qualcosa. Sì. Ah. Se vogliamo dare un interludio precedente, diciamo. Abbiamo una traccia di Getachew Mecuria, mi perdonino per la mia impropria sicuramente pronuncia, un sassofonista etiope, pioniere, diciamo, di tutto il filone dell'etio jazz, che abbiamo selezionato per l'ambiente onirico che riesce a creare, una traccia veramente da fumeria doppio, proprio un ambiente onirico e astratto. Sono due aggettivi che abbiamo sempre tenuto in considerazione nelle nostre composizioni, perché ci piace un sacco che ci sia un senso di astratto, per cui di cose mentali e intimiste, e un senso onirico, per cui anche che ti riporti in qualche modo anche a un torpore mentale onirico e a un tuffarsi proprio in una dimensione parallela. Benissimo, benissimo, anche per la capacità dei Magnetizer di esprimere a parole poi quello che in realtà è inesprimibile, insomma. Tutto ciò che concerne oltrepassare i confini della realtà al Magnetizer viene molto bene. Poi fuori, sì, no, penso di sì, penso di starci. Poi invece, mentre ascoltiamo la traccia, mi direte come andare a spizzare l'altra carta del poker. Quindi Getachew Mecuria, che si chiama Shemon Muayane. Ok, mi perdonino ulteriormente, sì, per la pronuncia. Ma per ricordarlo, ma l'ho fatto apposta per cattiveria, ovviamente. Thank you. 27 minuti dopo la mezzanotte, con i ritmi lenti che debbono contraddistinguere questa notte qui di 25 o'clock, abbiamo ascoltato un'altra, abbiamo scoperto, spezzato un'altra carta dal mazzo, e di cosa si trattava, e se volete dire due parole anche su questa produzione. Allora, Fertilità, Fertilità è un è uno dei pezzi più influenzati dal viaggio in Sardegna che ho fatto un paio di anni fa a piedi intorno al Sopramonte. Quanta nostalgia c'è ancora? Tanta. Però insomma ho avuto modo di conoscere tanto di quella terra, quello che mi è stato permesso di conoscere, ho avuto modo di conoscere gli strumenti sardi. Quasi per caso insomma ho trovato chi mi ha potuto dare questo flauto arcaico della Sardegna, che è chiamato Bena, che è una forma antica delle launeddas. Sono flauti a più canne, sono flauti di canna. Sì. La particolarità di questa bena è che lancia battente che vibra, sì, è incisa direttamente nel corpo della canna, quindi uno strumento estremamente semplice, seppur preciso nella realizzazione. E ha questo suono simile alla cornamusa, ma simile perché si ipotizza appunto che attraverso la via del bronzo i nuragici avessero portato, oltre che i loro beni, insomma, oltre che agli scambi commerciali, anche l'uso di questi flauti. Flauti che sono rimasti si sono poi evoluti in quello che sono le cornamuse, ma il suono è molto simile. Vengono realizzati tuttora, insomma, sì, artigianalmente. Sì, artigianalmente, insomma, c'è chi li fa. Ed è suonato proprio sul, cioè è campionato in qualche maniera o allora, è riprodotto? Tutti gli strumenti che sentiamo su Fertilità sono strumenti acustici, sono tutti suonati da noi, sono percussioni campionate. E diverse tracce di Bena che si vanno a sovrapporre. E avevamo immaginato appunto di ricordare un po' la cultualità che si può trovare in Sardegna attraverso pozzi sacri, tombe di giganti, tutta quella spiritualità antica connessa con l'acqua, la volevamo riproporre attraverso un rito di fertilità, appunto con questo brano quasi cerimoniale. Abbiamo usato strumenti e percussioni del mondo pastorale, sonaglie da pecora di varie fattezze. Anche questo insomma ricollega al concetto arcaico che è il filo conduttore del progetto Velester. Ma in qualche maniera è pure una sintesi insomma di quello che dicevamo in precedenza, cioè di questo nuovo e di questo arcaico che si intrecciano fra loro tutto sommato, cioè degli strumenti che vengono, la timbrica, lo strumento è quello, ma poi ci si lavora sopra insomma attraverso invece i computer, gli effetti, il mixer digitale, insomma è un po' tutta questa faccenda. È una sorta di modellazione di un vaso, come dire. Sì. Però partendo dall'argilla, cioè partendo comunque non dalla plastica, ecco. In questo caso proprio dall'argilla, totalmente argilla. È la peculiarità di questo brano. Va bene. E penso insomma poi sia un po' questa tutto sommato il concept vero, effettivo, insomma, anche l'idea che mi viene in mente, insomma, è che sia questa la storia. Questo lavoro, che è un lavoro insomma in divenire in realtà, che parte da mattoncini, da tasselli, da pezzetti, e poi pian piano appunto viene modellato attraverso il tornio del che poi sviluppa. Abbiamo fatto questa metafora del vaso, del vasellame, insomma, della faccenda. Come proseguiamo? Ditemi voi. Allora, ci ascoltiamo un pezzo di John Surman, uh-huh, con la sua Nestor Saga, dal disco del 72, se non erro, The Crazy Adventure of Simon Simon. E lui è un sassofonista e suonatore di synth. In questo brano fa tutte e due, ce lo ascoltiamo. Sono atmosfere molto dilatate, sempre ritornando dal discorso un po' da scappati del metal, cerchiamo insomma di stimolare altri neuroni in altre parti, ascoltando cercando insomma altre sonorità, e questo insomma sono suoni dilatati, sicuramente adatti ad atmosfere che abbiamo cercato di riprodurre questa sera. Esatto. E quindi John Surman, Nestor Saga parte 1, qualcosa del genere. Nestor Saga parte 1. Thank you. 46 minuti dopo la mezzanotte, ci siamo dilungati come nostra abitudine e come ci piace fare. Velester in studio, Radio Onda Rossa, 06 49 17 50, il numero di telefono. E così siamo arrivati al capitolo definitivo di questo demo che si chiama 2024 avanti Cristo. E parlavamo prima di immagini e di suoni. Qual è la vostra interpretazione? Cosa avete immaginato nel comporre e produrre poi questo Templi, ultima traccia per quanto riguarda il lavoro, il poker, il quattro tracce? Allora, l'ispirazione di questo brano qui in realtà viene da documentari sulla Grecia antica degli anni 70. Quindi ci siamo andati ad ispirare un po' a queste sonorità che si ritrovano al commento appunto nel racconto dei templi dell'antica Grecia. E poi si è evoluto insomma con una nostra interpretazione, immaginando appunto la storia se vogliamo, di questo personaggio immaginario, Velester, che entra dentro un tempio ed avviene una trasformazione. Ritroviamo l'acqua, quindi ritorna la cultualità dell'acqua che avevamo già esplorato con le sonorità della Sardegna, ed è un po' una narrazione appunto di un rituale, di un passaggio. È una danza in realtà molto lenta, molto andante, però è una danza, insomma. È un percorso rituale appunto del personaggio Velester, che fa attraverso il rito che si compie all'interno di questo tempio, e finisce insomma con la sublimazione appunto di questo atto con i suoni della natura, i cinguettii degli uccelletti. Non ha nulla da aggiungere Magna Dizer. Quindi è in qualche modo, insomma, magari non cercato, è questo viaggio che anche in cultura e civiltà mi sembra di ravvisare è piuttosto differenti. La società nuragica era percorsa comunque da non vorrei dire stupidaggini, però da un assetto di tipo matriarcale. Invece nella Grecia antica c'era tutt'altro, insomma, c'era Su questo non mi esprimo, sulla matriarcalità della Sardegna non ne so, sicuramente quello sempre. Sicuramente la Sardegna di oggi conserva alcuni retaggi molto forti di società matriarcale. Sì, ancora insomma ci sono zone ad alta concentrazione di questo retaggio, quindi. Poi, non conoscendo nello specifico la tematica appunto per quanto riguarda i nuragici, non lo so. Guarda, so che c'è un'isola praticamente con una cultura studiata, insomma, antropologicamente, che è quella di Dorgali, in cui si conserva, anche per esperienza personale, nei miei soggiorni in quella zona lì, ma magari non aliena, magari, cioè, a 20 km di distanza non c'è questa cosa, o è molto più sotterranea e comunque stiamo parlando comunque di Barbagia. Ed sono elementi meno spiccati, però nella società di Dorgali anche del secolo scorso, insomma del XX secolo, si riscontravano appunto elementi importanti di questo aspetto. Esperienza personale che dico, insomma, come andavano le donne, cioè c'era un ruolo molto sociale molto importante nella società pastorale. L'ho percepito anche io. Quindi vabbè, un'esplorazione, dicevamo, un po' a 360 gradi nell'antichità, comunque andare a cercare elementi un po' nella storia e nella storia arcaica e nella storia non scritta, insomma, tutto sommato. Eravamo arrivati appunto a questo rapporto immagini musica, e non so se c'era qualcosa ancora da dire, da approfondire. Ma un pochino, è anche il percorso di questa demo qui. Il brano di chiusura che abbiamo ascoltato, secondo noi si avvicina di più al voler essere a commento di immagini, comunque. Sicuramente Templi è la traccia che ha una matrice più cinematografica. Le immagini scorrono più chiaramente davanti agli occhi mentre l'ascolti, e rappresenta sicuramente quello che sarà il futuro panorama che andremo a esplorare, per cui i futuri passi di Velester vanno sicuramente nella direzione dei commenti sonori. Sicuramente, ecco, cose. Ci state già fattivamente lavorando o per ora in pausa? C'è già qualcosa. Ci stiamo lavorando. C'è già qualcosa appunto che è in lavorazione, nulla di ancora definitivo, insomma. Definitivo, esatto. Brani ancora in essere, però vanno appunto nella direzione del commento sonoro a delle immagini. Si spera, magari. Sì, quali che siano queste, poi l'obiettivo finale di queste immagini, che sia un video, un documentario, proprio un commento di un film o di qualunque cosa, però vi rendete disponibili, come dire. Assolutamente, Sara, se dovesse avvenire appunto un connubio reale delle musiche di Velester con delle immagini, noi saremmo più, certo, che lieti. Ci lavoreremo, ci proveremo a lavorarci, non noi direttamente, proveremo a trovare qualcuno che vorrà farlo, magari. Va bene. Se non ci sono altre cose da aggiungere, io mi avvierei sempre molto lentamente verso la chiusura di questa puntata. Non so se abbiamo da ricordare delle cose particolari, per ora lasciamo spazio a un attimo di suoni. Andiamo senz'altro a ricordare i prossimi appuntamenti della radio, cioè quello di sabato prossimo 9 marzo 2024, oltre a ricordare ovviamente lo sciopero dell'8 marzo e le varie manifestazioni e iniziative che ci saranno in quell'occasione della festa della donna. Abbiamo parlato adesso di una possibilità di esplorare i mondi antichi e le moderne forme di espressione appunto da parte di una società che non sia per forza quella del potere, quella patriarcale. Bus Lovers per Radio Onda Rossa, centro sociale occupato e gestito da Aurelio Marco, viale dei Caduti nella guerra di liberazione 270 a Roma. Il 9 marzo, sfida il tuo confine urbano, esci dal racconto, supporta Radio Onda Rossa nel 1977, la voce dei senza voce. Dalle 22 DJ set live, set techno al XOAT Aurel Marco, via dei Caduti a Liberazione, della guerra di Liberazione 270. Quindi vi diamo appuntamento a tutte e a tutti in quel di Aurel Marco. E poi ancora diretta da Terni, domenica 10 marzo 2024 dalle 11, spazio radiofonico, domenica 3 marzo una trasmissione in diretta dal CSA Germini Cimarelli per parlare della storia della conflittualità a Terni, Terni che lotta, domenica 3 marzo. Per chi ha voglia anche di esplorare quei territori, e penso che voi avreste magari anche da dirci qualcosa sull'area dell'Umbria e di quella zona lì, diretta radio dalle 11 alle 13 pranzo sociale, alle 15 Dharma Live, il centro sociale autogestino Germinal Cimarelli si trova in via dell'anificio 19A a Terni, poi ci sono insomma le varie info per chiedere, per domandare, per maggiori informazioni. Lo potete trovare sul sito della radio, appunto andando a cercare Terni che lotta, centro sociale autogestito Germinal Cimarelli. Poi ancora presidio per la liberazione di Anan, che come sapete è il compagno che rischia l'estradizione in Israele, compagno palestinese. Il presidio per la liberazione di Anan, non l'estradizione in Israele domenica 10 marzo dalle ore 14 davanti al carcere di Terni, in via della Ghetti. Quindi se chi ha voglia di fare una gita a Terni, c'è molto da quelle parti dell'Umbria, della bassa Umbria. Con tutto questo, diciamo, per ora risentirci alla prossima puntata. Un ringraziamento a Belester, non so se avete ancora qualcosa da aggiungere di così bollente e impellente. Un ringraziamento a Radio Onda Rossa e a tutti quelli che sono rimasti all'ascolto. Grazie veramente per averci ospitato dopo questa lunga gestazione. E ovviamente aspettiamo, sicuramente diffonderemo, anche so che Elettro pure si è reso disponibile a promuovere comunque questo lavoro molto interessante, dobbiamo dire, anche diciamo se non proprio sulle note molto spesso delle trasmissioni della radio, però lo spazio lo troviamo sempre, anzi tutt'altro, insomma, come sapete l'ecletticità dei nostri spazi è molto ampia, quindi cercheremo anche di inserire nelle scalette sempre e comunque qualcosa di questo lavoro che finalmente appunto abbiamo, siamo riusciti a presentare. L'astrazione è evasiva. Assolutamente. Salutiamo gli scappati dal metallo anche. Noi salutiamo anche, anche tutti e tutte quelle che sono costretti a condizioni di limitata libertà personale, il carcere, la latitanza, la clandestinità, gli arresti domiciliari, tutti i decreti amministrativi, chi subisce la repressione in varie forme, in vari modi, in vari impedimenti espliciti o occulti. E quindi ci diamo appuntamento a mercoledì prossimo. Le programmazioni in diretta di Radio Onda Rossa finiscono qui, si riprende domani mattina, vi lasciamo in compagnia della compagna automatica Sonata con le sue bizzarre selezioni musicali alternate alle corrispondenze, ai podcast che sono pubblicati sul sito della radio in replica. Si riprenderà domani mattina con la rassegna stampa, le prime pagine dei giornali, la rassegna stampa cittadina e redazionale, e poi via via tutto il palinsesto del giovedì della radio che si dipanerà per tutta la giornata fino ai cuginetti di Apostasia. E salutiamo tutte e tutti quelli che trasmettono il giovedì, come facciamo senza citarli stavolta, fino alla notte, e noi ce ne andiamo sotto la luna comunista. Bella a tutti e a tutte, ringraziamo Venester e bella così, dai. our dreams, I'll share our dreams under a communist moon.